Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, aspettando le prove di Formula 1 che stanno per cominciare, il derby di Roma che è domani pomeriggio, l'Inter che gioca stasera. Abbiamo un weekend densissimo di un sacco di appuntamenti di cui parlare in preview e di cui poi potremo parlare domani con i risultati sul tavolo. In attesa di tutto questo è tornato con immenso piacere mio a farmi compagnia Andrea Zorzi per il bis di sabato scorso. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato. Senti, partiamo dalla tua materia, cioè dalla pallavolo e dalle ragazze che hanno battuto questa mattina 3-1 la Germania, domani gli Stati Uniti. È una scalata dopo la sconfitta con il Brasile, una parete abbastanza difficile mi pare, però finché c'è vita c'è speranza. Sì, ed è questo il problema, che abbiamo lasciato per strada i punti contro la Repubblica Ceca e sono quelli che ci costano carissimi, perché nel nostro girone adesso ci sono Stati Uniti e Brasile che sono a punteggio pieno. Voi sapete che qui il girone non è così complicato come nel mondiale maschile, però questa seconda fase le quattro squadre di tanto girone si aggiungono e ci si porta dietro il punteggio acquisiti nel girone precedente, quindi noi andiamo solamente con due punti perché le tre squadre che sono Brasile, Repubblica Ceca e Olanda, solo uno abbiamo vinto con l'Olanda, quindi sì, siamo un po' giù. Abbiamo due sconfitte in più di Brasile e Stati Uniti, con Brasile non ci giochiamo, quindi la speranza è di dover battere tutti quanti naturalmente, compresi gli Stati Uniti che vanno come delle schegge, e sperare che il Brasile ci permetta di arrivare a pari punti con gli Stati Uniti. È una scalata piuttosto complicata, oggi è iniziata con la Germania, bella partita, partiti un po' lentamente, poi dopo la squadra tedesca guidata da Guidetti. Sì, che tutti questi allenatori italiani seminati per il mondo. Ce ne sono, tanti, la ragione è abbastanza chiara, negli anni 90 diciamo che la parte tecnica in Italia era molto molto sviluppata e per le nazionali e per il club, e questo ha fatto sì che molte federazioni puntassero sui nostri allenatori. In alcuni casi il rapporto è stato buonissimo, ricordiamoci Caprara nel 2006 con la Russia vincendo il titolo mondiale, dopodiché succede che molte nazioni, se non si vince con continuità, iniziano a diventare un po' nazionalistiche, quindi sì, no, ma questi italiani. Con la Germania è una situazione intermedia e Guidetti è molto bravo. Sì, vedi che anche nel caso ogni tanto abbiamo degli attacchi di esterofilia quando le cose non vanno bene anche in nazionale. Ma perché non proviamo con un allenatore straniero? Poi la levata di scudi agli allenatori italiani, siamo i più bravi del mondo. Sai che in Grecia, tra l'altro Caprara adesso allena la nazionale greca, gli allenatori hanno fatto un documento che hanno mandato alla federazione, gli allenatori greci hanno fatto un documento da spedire alla federazione dicendo non siamo neanche lontanamente d'accordo con la scelta di affidare la nostra nazionale a uno straniero, quindi questi dati sono abbastanza frequenti. In ogni caso, bella vittoria, bella Italia, manca l'Agüero. Lo sapevamo tutti, manca l'Agüero e facciamo fatica a mettere giù la palla in attacco. Sì, io sempre sulla storia degli allenatori stranieri, io dico se hanno qualcosa da insegnarci sul serio non vedo perché no, perché tu hai avuto una nazionale ai tempi d'oro, un allenatore straniero, però è un personaggio che al di là della bandiera, del luogo di nascita, ha portato qualcosa nel rugby, allenatori stranieri che hanno da insegnarci, soprattutto francesi, e ci hanno portati al Sei Nazioni, ci hanno portati a un livello quantomeno per il momento accettabile. Nella pallanuoto Ratko Rudic è arrivato, ci ha insegnato e ci ha portato in cima al mondo, quindi se hanno qualcosa da dare allo sport, non so gli ascoltatori cosa ne dicono, 800 24 00 24, tanto per cominciare, però se hanno qualcosa da insegnarci perché no? Sì, il problema è che lo sappiamo dopo, in base a come vanno le cose, saranno qualcosa da insegnarci ed è un po' complicato, perché così è facile sapere che Rudic, che Velasco hanno fatto moltissimo, che George Costa hanno fatto molto per il nostro sport italiano. Talvolta non è facile avere qualcuno che rivoluziona, come è avvenuto negli anni 90 in alcuni sport, grazie a un allenatore straniero. Io penso che i rischi siano due, come sempre. Farsi prendere da un incontrollato attacco di sterofilia, e quindi funziona tutto perché lui ci salva, oppure restare chiusi in se stessi pensando che, parlo della pallavolo, noi in Italia siamo più bravi degli altri. Sono due estremismi che vanno tenuti sotto controllo e che vanno elaborati quotidianamente. Quindi l'allenatore va bene, sapere che nessun allenatore da solo è quello che fa il miracolo, ci vuole il supporto dell'intero ambiente, dei giocatori, ci vuole del talento, e come tutte le cose al mondo non possiamo decidere sapendo come vanno poi i risultati, e quindi occorre fare nessuno tranne Mourinho, vuol dire Mourinho effettivamente sembrerebbe essere uno che non sbaglia un colpo. No, non sbaglia un colpo, poi insomma Real Madrid nel Real Madrid gli hanno detto: guarda, giochi male, non ci piaci tanto, quindi vedi di fare alla svelta. E lui ha fatto alla svelta. Io sono rimasto sorpreso, poi ne parliamo anche della settimana delle coppe. Sono rimasto sorpreso dalla rapidità con la quale Mourinho ha costruito questa squadra, dandole subito un'immagine, segno che ha un profondo ascendente sui giocatori che va ad allenare. Tieni conto che l'ascendente, come sempre, dipende anche dall'immagine pubblica. Certo. E Mourinho adesso non è il numero uno, ma di gran lunga il numero uno, e quindi può far pesare quotidianamente in ogni parola che lui dice ai suoi giocatori tutto il peso dell'intera Europa e del mondo. E quindi questo fa sì che chi si sente dare un suggerimento da Mourinho lo ascolta con molta attenzione. Il potere delle vittorie e dei risultati. Esattamente. Potrebbe essere poi un conto che tra un po' di tempo gli verrà portato e deve essere pagato in contanti, quindi Mourinho vedremo come se la caverà a lungo andare, ma finora tra Chelsea, Inter e Real Madrid sta effettivamente facendo risultati straordinari. Senti Andrea, io voglio sapere la tua anche su uno degli argomenti di oggi che compare un po' su tutti i giornali, questa lite tra Ibrahimovic e Onyew ieri in allenamento, un'entrata dura per parte, poi sono volate mani al collo i due per terra sul campo di Milanello. Oggi Allegri, ve lo faccio sentire, ha detto: ma no amici, baci e abbracci, non è successo niente di particolare. Ma in effetti, insomma, è stata cosa molto mediatica, è avvenuta su un campo visibile a quelli ai soliti curiosi arrampicati sulle reti, quindi è una notizia che si è immediatamente diffusa. Poi Galliani ha detto una cosa che io condivido: meglio così che gli allenamenti alla camomilla. Insomma, è chiaro che queste cose, è inutile fare i moralisti ad ogni costo, queste cose possono succedere all'interno di un gruppo, di una squadra, soprattutto in certi momenti di tensione, con la partita dietro l'angolo o in momenti particolarmente vivi della stagione. Sì, sono sintomo anche di quell'energia, di quella partecipazione. Qualche volta si sfoga in modo molto rude, quindi prendendosi per il collo. È stato interessante, oggi Gazzetta l'ha fatto vedere, c'era l'altezza, 1,95 m entrambi. Sì, quindi li hanno divisi in 10 perché erano facilissimi dividere, questi due arrabbiati. Tra l'altro la foto è entrambi a petto nudo, sì. Ed entrambi sono belli grossi. Belli grossi. No, credo che come sempre qui vado usato un po' di grano salis, nel senso che a me piace l'idea che quando si è in campo non si sia sempre totalmente sotto controllo, né, uso un termine esterno, politicamente corretti, perché occorre qualche volta essere anche molto espliciti, c'è da dire la propria, c'è da rimproverare un compagno, va tenuto sotto controllo da parte dell'allenatore che ha il dovere di tenere la situazione in pugno, ma è meglio dirlo, è meglio parlarne, anche perché molte volte qualcuno si limita o non dice ciò che pensa perché non vuole poi prendersi la responsabilità dell'eventuale risposta del suo compagno. Quindi una rissa così va considerata come tra le tante ipotesi che caratterizzano una squadra. Può accadere, come tu dicevi, in certi momenti di tensione. Onyebu viene da un lungo infortunio, immagino sia un po' stanco di aspettare, abbia voglia di giocare. Certo. Se gli arriva un colpo secco magari si spaventa un pochettino e reagisce anche in modo molto diretto, dopodiché se arrivi a terra a picchiarti è un po' più che un semplice spavento, c'è magari anche un po' di ruggine. Tu forse lo sai, io non sono un grandissimo fan di Ibrahimovic, che travolta lo trovo troppo sfrontato, lo trovo uno che vorrebbe risolvere con la forza troppe questioni, anche quelle che sono di natura molto verbale, però effettivamente piuttosto che avere una squadra che non dice nulla, che per non scatenare un minimo di polemica fa silenzio, credo che sia più interessante lavorare così. Ovviamente Galliani ha colto la palla al balzo dicendo: figurati, anzi è un bel segnale che ci sia una rissa. Magari la via di mezzo sarebbe ancora una volta la preferibile. Ci fermiamo un attimo, poi c'è da Giuseppe da Milano in linea, 800 24 00 24 numero verde, andremo avanti a chiacchierare a ruota libera con Andrea Zorzi, siete tutti invitati. Traffico. Poi vi darò nel giornale radio delle 18 l'esito delle prove in Brasile, che prove che sono iniziate, domani alle 17 il via di questa corsa, guarda caso dalle 17 alle 19 saremo insieme, dunque anche la Formula 1 ampiamente nel menu del programma di domani, ma restiamo all'oggi. 800 24 0024 numero verde. Giuseppe, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Volevo dire due parole sul fatto che Onyewu e Ibrahimovic sono venuti alle mani in allenamento. A me la cosa ricorda molto il clima che cercava di instaurare Pat Riley quando allenava i Lakers e poi successivamente. Sì. Cioè lui voleva che i giocatori sempre ce la mettessero tutta, se poi si trattava di venire alle mani tanto meglio, insomma, quasi incoraggiava il fatto che i giocatori ci tenessero e se poi ci scappava la che rissa, si instaurasse un clima molto competitivo, un clima molto competitivo in allenamento, sì. Esatto, sì, perché da un lato i giocatori si giocano il po', comunque è vero che i primi hanno quali diversi, però insomma se si tratta di metterci la tuta, dare l'esempio per i compagni, va bene, insomma, certo, vabbè, se si fanno male poi è meglio evitarlo, siamo d'accordo tutti, ma certo. In fondo sono d'accordo con Galliani, insomma, dovrebbe essere così, i giocatori devono essere i primi a far vedere che ci tengono. Sì, e come diceva Andrea Zorzi, con qualche, insomma, se si menano ad ogni allenamento non è un buon segno, diventa un segno di gruppo fuori controllo. Sì. E poi la competitività non si misura in base all'aggressività. Ah. Sono due componenti che sono abbastanza importanti, però il fare a botte non è l'obiettivo per cui si va in campo, ma essere preparati, pronti anche a uno scontro fisico. Negli sport di contatto è evidente che devi avere anche quella forza, quella disponibilità a prendere delle botte e a darle, ma l'obiettivo è giocare nel modo migliore possibile, con maggior lucidità, forse anche arrivando vicino allo scontro frontale. Poi andrei in uno spogliatoio professionistico, insomma, non si è necessariamente amici, ad esempio in America. Tra l'altro stanotte, per ironia del caso, è tornato in campo Gilbert Arenas dopo la lunga squalifica dovuta, ve lo ricorderete, a quello scambio di minacce con tanto di pistole estratte dall'armadietto con un compagno di squadra ai Washington Wizards. Ovviamente l'episodio diventò immediatamente dominio pubblico, pistole negli spogliatoi, quasi la minaccia di un duello da Far West, lunga squalifica per Arenas, che nella notte è tornato e ha perso contro i New York Knicks di Danilo Gallinari. 16 punti per lui, mentre Berinelli, per la cronaca, ha battuto la Miami dei tre re magi, segnandone 8, ma con una partita importante. Uno spogliatoio professionistico, non è necessario essere per forza amici, perché questo non accade, non è nemmeno necessario essersi così profondamente simpatici. Ci sono dei leader, no? Dei leader che magari qui è concesso anche il rimprovero in più, è concesso un rapporto un po' diverso con altri compagni, insomma sono dinamiche interessanti e complesse. Molto interessanti e molto diverse, questo è ciò che rende lo sport e ogni singola squadra e ogni singolo spogliatoio così interessante. Ci sono delle regole di base. Non è mai l'amicizia il collante per fare una grande squadra, perché più volte l'abbiamo detto anche Radio 24, per un amico si fa tutto quello che è necessario fare, giusto o sbagliato che sia. Per un compagno di squadra, o meglio ancora, se tu sei allenatore, per un tuo giocatore non devi fare tutto, devi fare ciò che è giusto per la squadra e per lui. Quindi l'amicizia va tenuta un po' fuori. Dopodiché ci possono essere delle sintonie, un certo feeling, quello però non è necessario. Non è che devo uscire al cinema col mio amico perché ama i film noiosi che voglio guardare io. Non c'è nessun tipo di vantaggio poi ad andare in campo con un giocatore di questo genere. Perché sai che la retorica dello sport dice questa è una grande squadra, amici in campo e fuori, eccetera. Può essere una componente, ma non è necessaria. Ad esempio, Michael Jordan entrava in spogliatoio, alcuni li salutava, altri no. Sai come? Anche nei Bulls che vincevano. Però rispetto professionale, sì. Nelle varie forme in cui questo si identifica, questo è fondamentale. Vuol dire che tu puoi entrare, non parlare con nessuno, ma quando sei in campo, se dai veramente sempre il massimo, e in te riconosco anche la capacità di aiutare la squadra, non nel modo di The Amicis, da libero cuore, aiutare la squadra, se io riconosco in te questo rispetto professionale, tu puoi comportarti anche in un modo radicalmente diverso dal mio e noi saremo un grande gruppo che può fare grandi vittorie. Dopodiché, se la rissa è un regolamento di conti, se la rissa è un nascondere i problemi, non va bene. Se la rissa è, per chi ha sport di contatti fisici, quella roba in cui io ho voglia di vincere e ci provo fino in fondo, secondo me è un bel segnale. Ricordiamoci sempre però che l'allenatore e la squadra e la dirigenza hanno il compito di tenere tutto questo sotto controllo, se no diventa anarchia e con quella non si vince. Fatale chiederti se a te è successo qualche episodio simile negli spogliatoi di alto livello che hai frequentato. Una volta ho rischiato di fare a botte con Andrea Anastasi. Eravamo a Merano, era un allenamento anche lì abbastanza faticoso. Poi nazionale? Veramente, sì, nazionale, i primi anni 90, e non ricordo bene quale fosse la ragione, però era un allenamento faticosissimo, come spesso accadeva a Merano in quei primi anni con Velasco, lati in spogliatoio, e ricordo che lui ha detto qualcosa, forse mi ha criticato, non ricordo bene, ricordo che mi sono alzato, pronto per andare a prendere per il collo Anastasi, il quale non ha abbozzato, anche lui si è alzato e poi ci siamo fermati, però quello è il momento nel quale si è arrivati più vicini a una specie di scontro fisico. Poi non ce ne sono stati altri, mille e mille casi invece di litigi, di risposte anche molto dure tra compagni di quella generazione che poi ha vinto moltissimo e rappresentava anche un grande gruppo, certo. Ripeto, fatto anche di amici in alcuni casi, ma principalmente di persone che si rispettavano all'infinito l'un l'altro. Invece reazione di Velasco e di chi vi stava intorno, della dirigenza, quale fu? Dunque, Velasco ha sempre usato un tema, diceva: lo spogliatoio è la vostra casa, io ci vengo il meno possibile e solo quando è necessario e avvertendo del mio arrivo. E quindi lui sapeva perfettamente che dopo un allenamento duro, in cui lui magari aveva forzato un po' la mano perché aveva criticato o fatto qualche polemica, qualche provocazione, non voleva venire a spogliatoio, e diceva: io devo lasciare a voi lo spazio anche di insultarmi, non sono così ingenuo da pensare che voi abbiate di me un'opinione positiva. E lasciava lo spogliatoio per noi e diventava spesso l'occasione per potersi sfogare, per potersi liberare. E ha sempre però fatto in modo di lasciarci la libertà di muoversi in modo abbastanza autonomo, sapendo però che c'era qualcuno che stava controllando e che diceva la sua. Questo sì, per me rimane importante. Quindi l'idea è: il recinto deve essere abbastanza grande, se no ti senti costretto e ti senti un po' legato, quasi incatenato, ma c'è qualcuno che dall'alto sta controllando, dicendo: attenzione, che questa cosa va bene, questa un po' di meno, per dare la direzione e per definire le regole che sono la base di ogni grande squadra. Io credo ci sia anche qualche ascoltatore che sarebbe meglio si dedicasse al cinema piuttosto che allo sport. E dopo c'è il programma di Franco D'Assisti, eh? Come chi scrive: picchiarsi, perché vi arrampicate sugli specchi? Picchiarsi in allenamento è non solo da maleducati e rispettosi, altro che bel segnale, siete diseducativi e basta. Per Fulvio consiglio il cinema, ce ne sono di belli, sullo sport quelli sono pura carta patinata, il resto è vita sportiva, secondo me. Massimo Callegari, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao a tutti, saluto Andrea Zorzi, con piacere. Ciao, ben ritrovato. Senti, posso sottolinearti un'altra cosa su cui non sono poi così d'accordo? Oggi, come al solito, come ogni venerdì, si spreca un sacco di carta, si usa un sacco di carta per sottolineare la crisi del calcio italiano. Ad esempio Repubblica, l'Italia che perde i pezzi, 9 sconfitte, 88 infortuni, e questi sono numeri... è cronaca, quindi sono numeri assolutamente reali e attendibili. Però io vorrei fare dei distinguo. Adesso è un momento così, perdiamo colpi, andiamo giù nel ranking mondiale, nel ranking europeo, perdiamo punti con la Germania e con tutte quelle che vengono dopo, siamo ai minimi storici. Però l'Inter è campione d'Europa, da Londra è tornata con una sconfitta, ma passerà il turno. Il Milan passa il turno, non è messo male, il pareggio con Real Madrid è stato acqua santa per il Milan, perché non nascondiamoci, meritava di vincere il Real Madrid quella partita, che poi il Milan ha pensato su a pochi secondi dalla fine. La Roma ha raddrizzato il cammino vincendo a Basilea. In Europa League le nostre vanno, a differenza di quasi tutte le altre, a giocare come in Coppa Italia con le riserve, atteggiamento che non condivido, però secondo me quelle non fanno molto testo. Non fanno testo, però fanno molto punti del ranking europeo, e quindi intanto significa che il senso di responsabilità generale, mica per fare del moralismo, ma perché comunque lottano per se stesse, ma un po' anche per il calcio italiano, è ai minimi termini, e quindi questo è un dato. Che lo affrontino poi come giocare alla Coppa Italia, e tu non lo condivida, io sono d'accordissimo con te, e faccio fatica a capire delle volte anche il motivo, nel senso che in un periodo in cui si fa fatica ad allenarsi insieme, allenarsi giocando è la cosa migliore, e meglio se lo si può fare contro avversari di più alto livello, perché poi noi abbiamo squadre di medio livello che sono inferiori rispetto a quelle di medio livello di altri campionati spesso, e in Europa League ultimamente ci sono anche squadre di alto livello di altri campionati, perché il CSKA Mosca, con una squadra simile, è arrivata nei quarti in Champions l'anno scorso. Il Liverpool è Liverpool, e poi ci sono anche altre squadre. E noi rimaniamo molto presuntuosi, perché pensiamo sempre di affrontare avversari di medio livello o di basso livello, diciamo: ah, siamo nel ranking addirittura adesso dietro l'Ucraina, dietro alla Russia, non si può, dietro la Francia. Però sono paesi organizzati, strutturati bene, con stadi importanti. Io ero a Copenaghen in settimana per il Barcellona, uno stadio che in Italia non c'è, con un'attesa eccezionale. Poi ho visto Manchester City giovedì in Polonia, c'era 43.000 persone, e quindi in Italia, a Juve Salisburgo, c'era quante persone? Pochissime. 8, 9, più o meno. No, però è un atteggiamento che un po' abbiamo, no, Andrea? Quello di giocare con gli altri, noi siamo italiani, siamo più forti. Però onestamente, secondo me, si esagera un po' in questa crisi, che poi vediamo come va a finire. In realtà di squadre attrezzate per vincere la Champions League ce n'è una, ed è l'Inter. Le altre due non lo sono, però possono comunque arrivare a primavera, insomma. Forse tra le tante doti degli italiani non c'è quella dell'equilibrio, o tutto bene o tutto male, o i migliori o i peggiori, quando invece la realtà è sempre un po' in quello spazio. E quindi è vero che ci sono alcune realtà che sono ormai da anni consolidate, cioè una minore organizzazione, una minore capacità di gestire e organizzare forse le società, però poi il resto io credo che sia, valga la pena pensare che non si è sempre migliori, non si è sempre peggiori, qualche volta va bene, sì, altre meno. No, aggiungo solo una cosa se posso, sì, come no. Che dal punto di vista anche della mentalità ci sono dei limiti che noi riscontriamo dal punto di vista generale, no? Nel senso che il Barcellona poi ha sbagliato alla prova dei fatti, però l'anno scorso dopo aver vinto la Champions League aveva effettuato degli acquisti, aveva comunque utilizzato il successo per cercare comunque di investire, di essere ancora più affascinante, attraente da ogni punto di vista. Il Milan ha vinto la Champions League nel 2007 e non ha cambiato nulla, è stato un punto di ripartenza per quel gruppo che c'era, no? L'Inter l'anno scorso ha vinto e nessun giocatore è stato inserito nell'organico, non solo per questioni economiche, credo. Quindi il messaggio che arriva anche ai giocatori, poi ad esempio quelli dell'Inter, è da parte della società prima di tutto: vabbè, adesso abbiamo raggiunto il massimo, poi vediamo se riusciamo con queste stesse forze a ripeterci, ma intanto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Questo è un po' un altro limite che secondo me noi abbiamo, e non dipende da questo periodo storico, ecco. Sì. Ma se, dimmi, ma... No, che la programmazione in questo caso è un altro dei nostri difetti. Facciamo un po' di fatica a immaginare un po' più in là del dopodomani. Quindi qualche volta si compra un giocatore importante per tenere buono il pubblico e i tifosi, qualche volta non lo si compra per questione di bilancio, ma non è mai molto chiaro qual è l'obiettivo che si pone la società, e questo forse ci crea delle difficoltà, perché l'impressione è che il Bayern Monaco, per esempio, sia il frutto di un lavoro che è stato portato avanti con precisione tedesca da qualche anno a questa parte. È così, Massimo? Certamente sì, perché comunque hanno tanti ragazzi giovani, hanno un'impostazione in cui il club è sempre l'aspetto più importante, mentre da noi i giocatori hanno un ruolo un po' superiore. Ad esempio, riferendoci al Bayern, l'anno scorso Ribéry ha fatto di tutto, ma veramente di tutto, per andarsene a Real Madrid, a Barcellona, dove lo avrebbero preso. Il club è riuscito a imporsi, come ha fatto il Manchester con Rooney, almeno nella forma. Adesso poi vedremo se sarà così anche nella sostanza. Milito, dopo due minuti della finale di Champions, ha detto: non so se rimango, vediamo se mi rinnovano il contratto e se me lo adeguano. È arrivato l'adeguamento, e quindi il potere del club e l'importanza che si dà al club, e quindi la programmazione che il club stesso si dà è un po' più limitate. Questo poi si vede magari a gioco lungo e non nella partita singola, perché l'Inter batte il Bayern, sì, chiaro. Però a gioco lungo un po' si vede delle prospettive, no? Massimo, volevo chiederti ancora una cosa prima di salutarti. Hai fatto un salto oltre che a Copenaghen, anche nella crisi del Manchester City. Ieri Mancini ha detto: io non me ne vado, se vogliono mi cacciano, decidono loro. Un buon rapporto lo Sheik, ogni tanto lo vedo, lo sento, però la sensazione è che insomma, gioca domani contro Di Matteo, gioca poi il derby di Manchester contro lo United, e la sensazione appunto che sia appeso a un filo di seta. Sì, la situazione è molto complicata. Se ci sono delle responsabilità sue, sono un po' le stesse che gli venivano imputate all'Inter in alcuni aspetti, nel senso che come quando era qua all'Inter, lì ci sono stati dei confronti di spogliatoi molto accesi, no? Mi ricordo Ibrahimovic, Vieira, Mihajlovic, qui se la prendevano, altro che Ibrahimovic e Onyema, ancora peggio. E lì i giocatori, in più casi, Touré, Milner, altri, senza entrare nel dettaglio, però insomma, cose che poi sono uscite sui giornali in maniera anche esagerata, evidentemente qualcuno dall'interno dello spogliatoio l'ha fatta filtrare. E poi il fatto che la squadra che è stata costruita ha un po' quel limite che la sua Inter, è una squadra potentissima, veramente forse potente quasi come il Chelsea dal punto di vista fisico, però manca un regista e manca un po' di brillantezza, un po' di fluidità del gioco, e quindi sono tutte cose che contano. Però per chiudere, ad esempio, oggi leggevo sulla Gazzetta il preparatore che era al Milan e che era al Chelsea, dice: in Inghilterra i giocatori sono disponibili. A sentire Mancini invece questo non è vero, perché lui fa di tutto per imporre la doppia seduta da 10 mesi, sì. Una doppia seduta durante la settimana, e non ci riesci, quindi anche qui puoi generalizzare. Non è mai stato così. Mancini, ti ricordi quando è arrivato e ha cercato di imporre subito i suoi metodi, è stata una mezza ribellione. Non ha dei bellissimi modi Roberto Mancini nel rapportarsi con il gruppo dei giocatori. Arrivo qui, comando io, fate quello che dite, io sono il capo, voi eseguite. E poi si attorna di tante figure a lui vicine, quasi come se avesse sempre il timore che poi chiunque lo volesse poi delegittimare, quindi questo lo isola ancora di più paradossalmente dal gruppo, dalla società, da tutti. Certo, grazie Massimo, alla prossima. Grazie mille a voi. Un abbraccio. Andrea, adesso ci fermiamo un attimo poi andiamo avanti. Ti leggo solo questo messaggio. Luca da Modena: ho fischiato e non solo Zorro per anni, ma è stato un piacere applaudirlo per la sfida Panini Maxicono dei 20 anni. Beh, sono una bella partita, anche perché mi ha riperso 3-0 che quella sera. Ma quella sera è bellissima, te la racconto dopo. Quindi Luca era contento, ma Luca da Modena era contento. Mi stavano applaudendo, a quel punto ho chiesto un attimo. Così non va bene, non vi riconosco tifosi modenesi, fate un bel urletto ai vecchi tempi, erano in 5.000 e tutti insieme mi hanno insultato amabilmente. Finalmente mi sento a mio agio in questo palazzetto, adesso vi riconosco. Ci vediamo un attimo, 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Eccoci tornati, sempre in mia compagnia Andrea Zorzi. Vi dico subito che a 22 minuti dalla conclusione delle prove in Brasile, gran premio cruciale di tutta la stagione, Vettel, Webber, Alonso hanno i tre migliori tempi, ma come detto manca ancora molto tempo. Ora non ho nessuna intenzione di far polemica con un ascoltatore in particolare o con degli ascoltatori, però c'è Fulvio che mi risponde: la correttezza è carta patinata secondo voi? Bel esempio per chi vi ascolta, buona zuffa. Ma qua difficilmente ci azzuffiamo. Anzi, ci mancherebbe altro. Se qualcuno ha colto un invito a far delle risse, ha capito male. Sì, non ci siamo spiegati male, ha capito male. Però c'è un tema per me molto molto più ampio, ed è quello della competitività, che adesso sembra essere negata. La competitività è rude, non c'è niente da fare, c'è uno che vince e uno che perde, e lo sport è una delle poche occasioni in cui in questa società spesso ovattata c'è la possibilità di confrontarsi con la vittoria e con la sconfitta. Poi vanno gestite, non è che chi ha vinto ha il diritto di vita o di morte, ci mancherebbe altro, siamo nel 2010 e non voglio tornare indietro, però la vittoria e la sconfitta sono la risposta rude a un'idea di provare a fare il primo meglio. Non è che noi diciamo bravi al Milan perché Ibra e Ognuno hanno fatto a botte, ci mancherebbe. Ma invece che far finta di pensare che la rissa non appartenga a un mondo anche dello sport che va gestita, mi sembra che cadiamo se non nell'ipocrisia di negare alcuni attesamenti che mantenuti sotto controllo e che talvolta possono essere anche in qualche modo un segnale positivo. Non è positiva che si prendono a pugni, quello è sbagliato, è diseducativo, ha ragione Fulvio, ma non pensiamo che non faccia parte delle possibili reazioni che si hanno in campo e che talvolta vanno molto vicine, sì. Perché ciò che accade in campo non è esattamente lo stesso di ciò che accade fuori, perché lì dentro è un mondo un po' diverso. Certamente. Poi voglio farti anche una domanda difficile sulla Formula 1 invece, perché c'è un altro argomento che mi solletica, è quello della... Sai che corno in Brasile, no? C'è addirittura un giudice che ha detto: se fate gioco di squadra vi ammanetto, vi imprigiono, voi della Ferrari con i vostri giochetti sorpasso e contro sorpasso, eccetera. Io continuo a trovare perfetto, al di là della Ferrari, della bandiera, tutte queste cose di cui non mi interessa nulla, però trovo perfettamente legittimo fare gioco di squadra anche in un gioco, in uno sport teoricamente individuale come la Formula 1. Assolutamente sì. Cioè, non ci vedi qualcosa di perverso. Qual in è il titolo questo? Più importante? Il titolo piloti. Proprio esatto. Di gran lunga, giusto? La squadra paga, qual è la cosa più importante? Vincere il titolo piloti, al di là degli interessi che possono esserci per un costruttore, eccetera. Però si corre per vincere il titolo piloti. I piloti sono due, c'è una prima guida e una seconda guida, dunque chi è davanti ha diritto di avere aiuto da parte di tutta la squadra, compreso il compagno. Assolutamente. Sarà difficile fare la seconda guida. Certo. Però questa è una cosa che decidi a inizio stagione, che magari ti viene in qualche modo comunicato, che può cambiare nel corso della stagione, ma l'idea o è che... O che si forma a stagione in corso, sulla base dei risultati. Fai scuderie diverse, e ognuno, a quel punto sono scuderie diverse. La scuderia ha due piloti, uno è quello che prova a vincere. Io su questo devo dire, non trovo, mi sembra veramente un po'... assurdo che si possa pensare che non è una tattica legittima. E poi vedi, ci sono quelli della Red Bull che hanno una macchina più forte, però essendosi fatti la guerra, rubati i punti fino all'ultimo, rischiano di perdere il titolo della macchina più forte. Questo secondo me è abbastanza un controsenso. Esatto, anche perché poi non puoi imporre agli altri di seguire la tua strategia, che non è una strategia, perché se loro se li sono rubati i punti, non hanno fatto, hanno lasciato così, tocca a voi decidere la vostra strategia. Secondo me se la Ferrari si mette d'accordo, poi non è bello vedere rallentare chi è davanti per farselo passare, questo è corretto, però fa parte delle strategie legittime di una squadra. Se ci sente il giudice brasiliano, arriva e clac, ci ingabbia. Anche a me e a te, penso un po'. Mattia da Caserta, buonasera. Buonasera. Buonasera. Niente, io volevo dire un po', innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. E volevo dire un po' sulla questione della competitività nello sport, la lite tra Ibra e Onyewu. Niente, io credo che sport sia uguale agonismo. Adesso se l'agonismo è nella partita, nella sfida di campionato, si trasmette sull'avversario e si cerca di vincere la partita, è quel tipo di agonismo. In allenamento l'agonismo è ovvio che sia tra compagni di squadra per poter scendere in campo e quindi dare la possibilità alla squadra di vincere la domenica la partita. Ovviamente il prendersi a pugni, a capelli, buttarsi per terra non è educativo, come diceva anche dicevate anche prima, però è ovvio che si può incorrere in certe dinamiche che sono poco controllabili. E quindi quello che mi stavo domandando era chissà se è meglio avere uno spogliatoio più bevato al vetriolo, diciamo così, o uno spogliatoio alla camomilla. E sicuramente la risposta, come spesso capita, credo che sia successiva alla fine del campionato, quando tutto è passato. Probabilmente sì. Se il Milan riuscisse Mattia, io non dobbiamo correre un equivoco, incappare in un equivoco, perché non credo che cioè ci può essere un buono spogliatoio, come credo sia quello del Milan, in cui possono succedere di questi screzi. Non credo che siano o tutti lì che si tengono le cose dentro, non si dicono una parola uno con l'altro per paura di ferirsi. Non credo che quello sia un buono spogliatoio. Prima a semplificarla così, c'è il limite estremo verso il vetriolo, come diceva l'ascoltatore, sì, in cui si litiga in continuazione senza ragione e comportandosi malamente. Dall'altra parte c'è l'assoluta camomilla, o quindi non si dice mai nulla per disinteresse o perché non c'è nessuna voglia di prendersi le responsabilità. Sono due estremi, entrambi sbagliati. Lì in mezzo ci sono mille possibilità che dipendono dal gruppo, dai vari caratteri. Se non c'è però quella sorta di energia interna, chiamiamola agonismo, competizione, senza di quella non puoi far nulla. Certo che quella competizione va incanalata. Certo. Ecco perché ritorno sul fatto che Allegri o chiunque ha il compito di dire: attenzione, io posso anche pensare che sia una dimostrazione di voglia di giocare e di vincere, ma la rissa è comunque sbagliata. Riportiamo quell'intensità sul gioco, sulla lucidità. Certo. Traffico, poi di nuovo qui. Stavo leggendo anche qualche messaggio dei molti che arrivano, 349-238-6666. Ma certo che scrivono anche cose strane, tipo questa: che buffo, se due giocatori dell'Inter non si salutano, i media titolano a quattro colonne per un mese, se due del Milan se ne danno di santa ragione, è sana competizione. Anche voi andate alle feste di Berlusconi? No, io non vado, purtroppo, non sono mai stato invitato. Bisognerebbe dirlo a quelli che titolano a quattro colonne se due giocatori dell'Inter non si salutano. Sono cose che io non so, insomma, mi sembra un po' forzato. Sentiamo cosa ha detto Allegri invece a proposito di quelli che se ne sono andati di santa ragione. Non sono rimasto male, che abbiamo fatto un bel bacio e abbracci, quindi tutti contenti, tutti felici, non è successo assolutamente niente e quindi credo che sia stata ingigantita. È giusto fare allenamenti sul campo esterno, anche perché i tifosi ci danno a vedere, fa piacere vedere la squadra allenarsi e quindi non c'è nessun problema, anche perché, ripeto, non è successo niente di grave e quindi non rifaremo sicuramente gli allenamenti sul campo esterno, anche perché a me piace, è giusto che la squadra è giusto che i tifosi vedano la squadra allenare e vedano proprio i beniamini, punto. Non c'è assolutamente niente di male. Cosa ne pensi di queste parole di Allegri di oggi? Che si va avanti, ma anche la settimana scorsa ne hai parlato, ti ricordi? C'è la doppia prospettiva di chi è dall'interno, lo ritiene più o meno normale o ha le idee molto chiare, chi dall'esterno. A proposito di giornali, oggi sono 8 colonne, non sono 9, perché a fianco però insomma se ne parla di questa rissa moltissimo. No, io credo che dall'interno vada riportata una tranquillità. Poi Ibra magari è uno che in alcuni casi ha risolto le questioni anche in modo molto diretto, così ripeto. Se la vi. Mirko da Milano, buonasera. Buonasera a lei. Volevo parlare di Rafa Benitez, se condividevate con me la mia opinione. Cioè, sull'intelligenza di Rafa Benitez, è possibile che lui, dopo la partita di Inter-Totona, recuperato 3 gol, ti ripresenta la stessa squadra a Londra senza capire che Maicon è fuori condizione, che potrebbe stare in panchina, ma non ci abbiamo giocatori, potrebbe giocare in mediana. Spostare anche Chivu, perché il Tottenham avrebbe potuto attaccarci sulla destra e sulla sinistra e noi saremmo stati passati da tutte e due le parti, mettendo in campo un Chivu più avanzato piuttosto che un laterale e quindi coprendoci un po' di più sulle fasce. E qui, secondo me, non c'entra la campagna acquisti dell'Inter, qui proprio è intelligenza del coach. Se il coach è legato alle sue idee, mette in campo la squadra che ha. In realtà, secondo me, ho timore che Rafa e poi gli uomini si vedono nei momenti di difficoltà. Quando va tutto bene sono capaci tutti. Questo era un momento di difficoltà. Noi avevamo il grosso vantaggio di avere un 4-3 all'andata, sì, e poterci giocare 2 risultati su 3. Prima mi copro e vedo come va la partita e poi vado a prendermela la mia partita. Cazzo, è quello il concetto che un coach dovrebbe avere. E secondo me sarà persona educata, sarà persona a modo, sarà persona che parla anche diverse lingue, ma di intelligenza proprio espugna. Quando mi si racconta che i giornalisti raccontano che l'Inter ha possesso palla per il 60-70%, primo, io ho giocato a calcio, dipende da cavolo ce l'hai la palla, se ce l'hai nella tua tre quarti o ce l'hai nella tre quarti dell'avversario, se stai vincendo o se stai perdendo. Sì. E quindi è qui, secondo me, è l'intelligenza di un allenatore. E l'allenatore vince nei momenti di difficoltà. Se quando va bene sono buoni tutti a salire sul carro del vincitore. Sì, sì. Ma non lo so, io non la metterei sull'intelligenza dell'allenatore Benitez. Certo è che la partita di Milano era stata una cosa talmente strana da quasi da non far testo, però qualcosa dovevi capire da quel finale di partita. Evidentemente Benitez è andato fidandosi dei suoi. È chiaro che ha un organico in questo momento davvero ridotto, lui come altri, però evidentemente ha un po' sottovalutato il rischio che arrivava da Bale e dagli altri. È chiaro che quei primi 80 minuti potevano anche trarre in inganno gli altri, magari non Benitez. Non parlerei però di intelligenza dell'allenatore in questo caso. Io invece mi limito a commentare la cosa bella, che le statistiche vanno lette con molta attenzione, perché se nel calcio, cosa che io conosco solo parzialmente, superficialmente, avere il possesso palla nella propria tre quarti o negli altri è diverso, nella pallavolo o nel basket i numeri non esauriscono la partita. Sono importanti perché possono dare una base sulla quale discutere e condividere l'idea di ciò che sta accadendo, ma le statistiche, ricordiamo, sono importanti se lette con molta intelligenza. Sì. Poi, nel calcio, me, in modo particolare. Ma nel calcio, il calcio è lo sport meno statistico che esista. Cioè, la statistica del possesso palla nel calcio, secondo me, è puro fumo negli occhi. Ma infatti sarebbe interessante anche lì rendere statistico se c'è una relazione diretta tra alcuni numeri. Nella pallavolo c'è di per certo, sai che se attacchi sopra il 60% non perdi praticamente mai, o magari se fai meno errori non perdi. C'è una relazione diretta. Nel basket è un po' meno stretta, ma ci sono alcuni parametri che sono comunque molto molto importanti. Spesso sono degli indici che prendono in considerazione più dati. Nel calcio no, semplicemente perché basta un gol in 90 minuti a cambiare la sorte di una partita, e quindi la statistica in quel caso è totalmente inutile. A proposito di infortunati e di squadre in difficoltà, Giovanni Capuano, buonasera. Ciao Carlo, buonasera. Sembra collegamento, questi collegamenti che facciamo ormai sono quelli dei reduci, no? Quelli, chi c'è, chi non c'è, chi è in infermeria, chi è fuori dall'infermeria. È un periodo in cui tutte le grandi squadre in particolare fanno i conti con le corsie dell'ospedale. Beh, allora oggi c'è anche qualche notizia nuova. Allora, partiamo dall'Inter che gioca questa sera alle 8:30 e potrebbe esserci qualche novità, perché Benitez sembra orientato, pur tenendo gli 11 che sono grossomodo gli unici che ha a disposizione, a disporli più con un 4-4-2 che con un 4-2-3-1, e quindi allargando Coutinho e Pandev sulle fasce per cercare di garantire una maggiore protezione alla linea difensiva e avvicinando Eto'o e Milito e quindi all'area del Brescia, che si presenta coperto a San Siro, ma del resto potrebbe fare poco diversamente. Le novità e gli infortuni colpiscono, tanto per cambiare, la Juventus, dove non è stato convocato Amauri ed è il 13° assente per la sfida di domani contro il Cesena. Ci sarà, ed è confermato, l'esordio di Sorensen al centro della difesa con Bonucci, sulle fasce c'è l'esordio di Grosso che è stato reintegrato a sinistra, poi c'è Motta, davanti ci sono Del Piero e Quagliarella perché Iaquinta ha recuperato ma può partire soltanto dalla panchina. E a proposito di infortuni, Krasic starà fuori un mese, di più starà fuori le Grottaglie, quindi sono le ennesime tegole per Del Neri. C'è qualche cattiva notizia anche per il Milan, a sorpresa infatti non è stato convocato Thiago Silva, che si è fermato per un fastidio muscolare, non convocato nemmeno Antonini, così come Oz e Bonera, ma di questi due si sapeva, è squalificato Boateng, potrebbe saltare un turno Pirlo, in questo caso giocherebbero Flamini e Regista con Gattuso e Ambrosini, debutta Yepes al centro della difesa con Nesta, Allegri l'ha annunciata, Abate a destra, Yepes e Nesta centrali, Zambrotta a sinistra, per tutto il resto detto vedrete domani, sicuramente giocheranno Ibrahimovic e Seedorf, possibile Inzaghi dal primo al posto di Robinho. Poi se vuoi ti dico due cose di Lazio-Roma. Come no? Allora, per quanto riguarda la Lazio, c'è il recupero di Muslera, era abbastanza scontato anche se in realtà in settimana il portiere si è allenato poco, c'è Biava squalificato al centro della difesa, giocherà Stendardo, davanti anche nella rifinitura che si è chiusa da un'oretta c'era Rocchi con Floccari e quindi domani dovrebbe essere lui a partire dal primo minuto con Zarate in panchina. A proposito di infortunati, nella Roma la buona notizia è che Burdisso è stato recuperato ed è convocato, ha detto addirittura Ranieri sta bene e ci sarà certamente, in realtà farà un provino domani mattina, comunque giocherà in coppia con McFess anche perché non ci sono alternative, tra i convocati ci sono anche Pizarro e Brighi ma partiranno dalla panchina, la Roma quindi dovrebbe giocare con Vucinic e Boriello punte, a centrocampo Simpisio, De Rossi e Perrotta con Menez trequartista, Cassetti e Rise sulle fasce, in difesa McFess e Burdisso, lo abbiamo detto in centrale. Perfetto, grazie Giovanni Capuano. Noi adesso ci fermiamo, domani pomeriggio avremo un sacco di argomenti di cui discutere tra calcio e poi Formula 1 in divenire. Intanto ringrazio Andrea Zorzi che sarà ospite qui quando vorrà. Grazie a voi, piacere sempre stare un'oretta con voi. Ciao a tutti. Grazie Andrea Zorzi, Giorgio Drucchi in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. A domani alle 5.